Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Le donne al limite possono mettersi le scarpe cinesi, anche se mi hanno lasciato sempre un po' freddo. Quei colori così decisi, rosso rosso, azzurro azzurro, nero nero, e poi quella specie di scollatura attraverso cui si intravedono alcune dita. Ma che mi vuoi provocare facendomi vedere un po' di dita? E allora le caviglie. Io non sto malissimo, no, no. Ma questi sono i sandali blu con quattro buchi che avevo da bambino quando andavo d'estate alla domenica. Chissà chi è la madre. E quando ho visto le sue scarpe io ho capito tutto di lei. È un uomo che ha sofferto, che ha solo un paio di scarpe alla volta, che piano piano si consumano, diventano lisse, perdono il colore. Quando io ho guardato le sue scarpe ho pensato, ora glielo dico subito. Certo, veniva bene a Nanni Moretti a metà degli anni Ottanta a fare il gigione su come vestiano le donne, quelle che guardava lui, quelle del suo giro, quelle che mettevano le espadrillas, quelle che vestivano nero e blu, non vedeva le altre, quelle che in realtà hanno impresso più fortemente la nostra memoria, le donne con le spalline, le donne con le minigonne a mezza coscia, le donne con i capelli vaporosi e gonfi, e gli uomini come vestivano in quel periodo? Gli uomini vestivano con delle belle giacchettine, con un bottone soltanto, mi ricordo, belle imbottite sulle spalline perché non so, andava tanto di moda avere queste spalle larghe, sembrava di essere dei lottatori, io che sono sempre stato tisico, sin dalla nascita, mi sembrava che quello fosse il periodo in cui potevo ostentare un fisico possente, è un ridicolo, vedo ancora le foto di quegli anni, ho dei calzoni a vita altissima, tutti larghi, venivano giù dritti, chissà perché, delle scarpe orrende, fine fine, piccole, sembrava che non ci fosse la suola, e i pantaloni coprivano tutta la scarpa, mi sembrava di essere tanto figo, portavo il papillon, una cosa che oggi non metterei nemmeno sotto tortura, ho le mie foto degli anni Ottanta io con il papillon, mi sembrava di essere figo, fumavo il sigaro toscano, che dava quell'aria così... Ancora qualcuno ci casca in questa trappola, una cosa orribile, puzza, puzzi tantissimo, ti vengono i denti tutti neri, c'è sempre questo mozzicone puzzolente, fradicio in mano. Però dava gusto, fumavo il sigaro toscano, quell'area un po' così, piratesca, ero da poco approdato, provinciale perugino, nella civilizzazione Rai romana, tutti allievi di Asor Rosa, loro vestivano tutte le belle camicettine, con le maniche corte, con risvoltino, pantaloncini celesti, erano tutti bravi ragazzi, con le loro fidanzate che avevano sin dal tempo del liceo e passavo dei noiosissimi pomeriggi, mi ricordo, guardando le diapositive dell'estate e ridevano tantissimo, c'era Frizzi era un ragazzino ancora, faceva il DJ e faceva quel rumorino che allora andava di moda, facessero i DJ facendo scrosciare i dischi, tutti dicevano ah come sei avanti e poi è diventato Frizzi. Beh, ricordate quello che è stato il trascorso della vostra storia legata alla maniera di vestirsi. Come vi vestivate? Quali erano i vestiti permessi e quelli interdetti? Mi ha scritto un'ascoltatrice paranoica che mi scrive sempre, dice, ah, io volevo tanto il chiodo, però non me l'hanno comprato mai. Pensate a questa ragazza, oggi una signora, che ancora in sé questo desiderio inespresso di chiodo, un giubbottaccio di pelle che vendono in ogni bancarella. Devo averne uno da qualche parte. Ce l'ho perché non muore mai, non si uccide mai. Però non avevo il chiodo, quello fighetto, quello bello, quello che aveva Fonzi, aveva un chiodo un po' più coatto con il pellicciotto sopra e anche dentro che veniva tutto dritto, non dava quella bella silhouette da giovane ribelle, no, dava quell'area da camionista un pochino in età con la pancia abbondante. Beh, raccontatemi i vostri vestiti, quelli proibiti, quelli permessi, quelli che vi piacevano e soprattutto come siete vestiti oggi, guardatevi bene allo specchio e capirete immediatamente il tempo che è passato, la camicia l'avete addosso voi, ce l'avete soltanto voi, a voi piace tanto, la lavate velocemente, ve la rimettete come accade a me, pensate vi stia tanto bene, ma è come fosse un sudario, dimostra che siete già morti il fatto che portate qualcosa che non è più di moda. 800240024. In questi anni la moda si presenta con delle caratteristiche precise, ovvero i tessuti sono principalmente adornati, se così si può dire, da fantasie floreali e sono di colori molto sgargianti. I pantaloni sono a vita bassa e presentano la famosissima forma a zampa di elefante, ovvero sono stretti fino al ginocchio e poi svasati così fin sotto ai piedi, fino alla caviglia. Per quanto riguarda i tessuti utilizzati per i pantaloni, andavano molto in voga il velluto a coste e il jeans. Per quanto riguarda la maglieria, invece, si utilizzavano queste camicie molto larghe, normali sul busto e a manica larga, molto svasata. Sì, no? Mi ricordo le camicie. L'evoluzione della camicia maschile la posso riassumere in pochissimi tratti. Prima c'erano le camicie uguali a quelli del padre, che le mettevi i giorni di festa e la domenica, gli altri giorni mettevi orribili magliette a righe, che erano sempre slabbrate, perché allora andava molto il sintetico era qualcosa di plasticoso, schifoso e puzzolente, ma allora era bello, più era sintetico più era bello, più andava di moda. E siamo nel passaggio fra gli anni 60 e gli anni 70. Negli anni 70 cominciavano ad arrivare di moda le camicie che hanno le pence dietro, devono essere avvitatissime e... naturalmente non essere sbottonate fino all'ombelico e davanti deve esserci un bel catenone con attaccato ogni ben di Dio. Le camicie andavano in fantasia indiana e si compravano nelle bancarelle a via Sannio, puzzavano, c'erano l'alone delle ascelle rimasto dentro fissato perché venivano dagli Stati Uniti, era robaccio, però ci piacevano tanto, ci piacevano quei colli lunghi che arrivavano fino ai capezzoli, qualcosa del genere. Poi andando avanti, anni 80, cominciavano a venire le camicie larghe che si portavano con le maniche arrotolate, orrende, larghissime e strette dentro la cintura, quindi si mette la camicia infilata dentro i pantaloni con questo grande sbuffo, pantaloni a vita alta, una cosa orrenda. Daniela Ranieri, buongiorno. Buongiorno. Mi sono lasciato andare un attimo sul filo del ricordo legato all'estetica del vestimento. Ricordo Daniela Ranieri partecipò alla nostra trasmissione da poco, è una scrittrice, saggista, autrice di Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, edizione Ponte alle Grazie, uscito a giugno, libro che sta andando moltissimo. L'Aristodem è l'evoluzione biologica del radical chic, quindi tu hai beccato un settore dell'estetica maschile che in realtà non ha grandi variazioni. Il radical chic è rimasto più o meno vestito alla stessa maniera dai tempi di Hemingway fino, diciamo, alla caduta di Bertinotti, qualcosa del genere. Sì, è così. Tra l'altro la clip che hai mandato all'inizio, quella di Bianca, dimostra chiaramente come la moda femminile abbia subito un balzo, rispetto al quale Laura Morante, che è una dei personaggi suo malgrado del mio libro, è stata profetica, come quasi tutto quello che ha fatto Nanni Moretti. Cioè lei era molto più Aristodem allora di quanto sia... Descriviamo i particolari, perché dobbiamo... Ci sono delle differenze fondamentali. Il radical chic ha subito a un certo punto la fascinazione per l'esotico e l'etnico, che l'Aristodem trascura senza nessun problema. L'esplosione del bancarellume ha portato l'etnico a portata di tutti. Una volta dice: ho fatto un viaggio, sono stata in questi paesi, tornavano con... Col caftano, il poncio andino, è roba che prendeva sul posto. Borse, l'andino andava molto. Il filato, quello... Il poncio è una delle cose più orrende che possa esistere. Orribili, portato anche d'estate, l'ho visto, dal radical chic alle feste. L'Aristodem se ne sbatte altamente. Ricordo una passeggiata, lo posso dire, con Calasso e Floreghi in riva al mare d'estate, di notte, lei aveva... aveva una sorta di giacca vento invernale. Certo, sì, questo contrasto freddo-caldo. No, l'Aristodem ha dimenticato quell'aspetto lì orientalista, perché ne vede l'aspetto imperialista, ovviamente, e ha ripiegato su una scelta di sobrietà e di decenza, si veste un po' nello stesso modo in cui fa la raccolta differenziata, no? Quindi tutto molto pulito, linee molto sobrie, decenti. Va molto anche l'equo e solidale. Io sono stato al testaccio l'altro giorno, c'è proprio una sezione dell'ex mattatoio, una volta scannavano gli animali, adesso viene purificato con questa catarsi del cotone equo solidale. Col cotone equo solidale, che è quello, insomma, biologico, no? Quindi la logica che guida le loro scelte alimentari e ecologiche è la stessa che guida loro. Però il punto è che l'Aristodem, rispetto al radical chic, che ci teneva ad essere aggiornato in fatto di moda, è uno che ci tiene a mostrare che se ne frega di seguire le mode. E questo è il risultato che si vestono tutti come Valerio Mastandrea. Capito? Con tutto il rispetto. Poi devi descrivere il vestito di Valerio. Te lo descrivo. Allora, noi ci può dire che siamo vicino Termini, no? Se sì. Tu vai a Termini, prendi il treno per Sabaudia, in 50 minuti stai da Saporetti a Sabaudia e li trovi che fanno tutti l'aperitivo a quest'ora, parmigiano e prosecco, vestiti, ti dico io adesso come. Pantalone di lino un po' lasco, non bianco perché bianco è billionaire, ma grezzetto, blu navy, molto lavato, molto stinto e cru, tortora. Maglietta Riot, però... Anche perché l'alone si vede meno. Sì, un po' si deve vedere pure, non è. Però insomma stiamo parlando di tessuti più o meno pregiati che sono costati parecchio, adesso non voglio quantificare per non fare la poveraccia, però insomma, maglietta Riot, che può essere il concerto dei Jefferson Airplane nel 2003 a Prima Valle, che gliel'ha regalato l'amico loro di Morena, no? Quello che lavora coi cavalli. La scarpa è importante perché, allora, la scarpa, il mocassino morbido fa ricco da gospia, non va fabbriatore, non va bene. Rigido fa manager di Gabbetti Casa di Tor di Quinto. E il calzino c'è o no? No? No, il calzino non c'è, c'è una cosa molto sottile, molto feroce, cioè la ciabatta o ciabatta della Champ simil proletario che gliel'ha comprata la moglie alla Rinascente, alla sezione casa, oppure addirittura per i più ardimentosi, e mi viene in mente proprio cioè Daniele Silvestri per capirci, l'anfibio in spiaggia. Molto sbottonato. Molto sbottonato, o scarpa da ginnastica. Sempre slacciata. Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Sul filo del ricordo, sul filo dell'esperienza. Essere alla moda per voi cosa ha significato e cosa significa tuttora? Paolo. Sì, pronto. Eccomi. Sì, buongiorno Nicolette. L'incipit della sua trasmissione mi ha fatto venire ovviamente il latte alle ginocchia. L'imbarazzo purificante quando qualcuno ti ferma in strada e devi tirare fuori la foto della patente, che ovviamente ti rimanda a 30 anni fa e ad un'immagine assolutamente improponibile. Per fortuna si vede soltanto il colletto della camicia, la giacca. Sì, no, che però è già abbastanza. A parte il fatto, vabbè, in quegli anni lì l'icona dominante erano l'esagerazione alla Talking Heads, per cui giacche enormi a metà fra il fumettone anni 40, come diceva lei, col pantalone a vita altissima, il pantalone con le pants e così. Però cioè, ci sono delle poi scomparivano le scarpe, perché le scarpe erano piccolissime allora, erano scarpettine ridicole con la suola di cuoio, non c'erano quelle belle scarpe con rialzo, quelle che portava l'ex sindaco alle mani. Verissimo, c'erano queste scarpettine che, come dire, se arrivava fino lì poi quello che succedeva giù non interessava a nessuno. Questo è il periodo più infelice, poi, diciamo la verità, è la moda più infelice, la metà degli anni Ottanta, il periodo che in televisione andava Arboretum, quelli della notte, c'era D'Agostino che faceva l'uccologo, che improvvisamente ci rendemmo conto che eravamo tutti coatti, perché noi vestivamo come i personaggi delle soap brasiliane che in realtà erano stati girati in Brasile 10 anni fa, quindi ci sembrava di essere avanti ma eravamo indietrissimo. Una delle cose più terrificanti che mi ricordo erano le giacche con le maniche rimboccate. Sì, sempre, è vero. Le giacche con le maniche tirate su, io me le ricordo come una... adesso riguardando... Era impossibile non rimboccare la manica della giacca, non so perché, è vero. Queste giacche orrende, monobottone, larghissime di spalle. Con la manica tirata su. Allora, fermati un attimo. Ivo Germano, buongiorno. Buongiorno. Mi spiace, ma mi serve un parere proprio tecnico, scientifico, sociologo, autore insieme a Danilo Masotti di un libro che uscirà il 3 luglio, quindi ne facciamo una pre-anticipazione, New Golden Dream e altre storie degli anni Ottanta, edizioni Pendragon. Allora, mi spiega, professor Germano, come mai la giacca negli anni Ottanta aveva la manica rimboccata? Perché non si usava il termine moda, ma si usava forse qualche ospite della gente, si è anticipato il termine look. Ah, il look. Cioè, era un'ideologia totale, tu compravi a scatola chiusa, no? C'era il look Armani di Don Johnson di Miami Vice, quindi la canotta, la giacca. Sì, il modello irraggiungibile era Armani, mi ricordo. Armani, che è lo stesso poi di Richard Gere in American Gigolo, no? Mm-hmm. La panoplia di camicie di diversi spessori, le giacche un po' a scacchettini che lui sceglie per andare, diciamo, un appuntamento dove fare la sua marchetta. E quindi eccetera. E poi c'era il look, che era un look sovrano del personaggio motore degli anni Ottanta, che è lo stilista. Cioè, era lui che ti diceva come dovevi vestirti. Era lui che imponeva le icone che trasmettevano il modo di vestire. Quindi in realtà la giacca arrotolata, penso anche alla maglietta bianca, penso al colletto della camicia chiusa, eccetera, erano pretesti per imporre il look. Perché non era importante vestire, era importante l'immagine, no? Io mi ricordo in quegli anni gli uomini scoprirono improvvisamente che a quegli orrendi slip con la pattina davanti, con l'elastico, così si poteva alternare il boxer. Il boxer era considerata la mutanda dei padri, quindi nessuno sarebbe messo un boxer. Ma nelle bancarelle di tutta Italia cominciarono a essere esposti boxer policromi, colorati, con le fantasie. E improvvisamente ci sentiva ipervirili perché alla mutanda compatta e si alternò il boxer. Me lo conferma, professor Germano? Confermo, perché la mutanda compatta era relegata nei film porno, che hanno un bambù negli anni Ottanta e incidono molto sul sì look. Perché favoriva l'impaccamento visivo, era il gift box, viene chiamato pacco regalo, no? E soprattutto il boxer però era abbinato col dopo barba, Una grande stagione degli anni Ottanta sono i dopo barba e i profumi abbinati a dopo barba, Menen, Rockford, Malizia, eccetera. Ma ricordo che uscì anche Intimo di Carinzia per uomo al Sasso Frasso, fu una novità. Perché era la scoperta di intimità, cioè il maschio negli anni Ottanta scopre che anche lui ha diritto alla cosmetica. Cioè sì. È Guerra alla Caciotta si chiamava. Esatto, ecco, la lascia, eccetera, ed era anche poi il germe e di quella tipologia che sarà poi il metrosexual. Cioè è negli anni Ottanta che inizia la crema per le rughe, e negli anni Ottanta che inizia il prodottino, come dicevano... Uno dei tempi degli anni 80. La femminilizzazione maschile attraverso la moda comincia negli anni 80. Fermo un attimo, Ivo Germano, Francesco. Francesco. In linea? Sì, certo. Ciao, Micretti. Mi parli della sua esperienza. Mi ha fatto venire in mente quando hai detto Intimo di Carinzia. Sì, al Sasso Frasso. Lo compravamo tutti. Quando era uscito nel i piatti, fu ritirato perché la voleva lavare lui. Se ricordi? Sì, sì. Io sono rimasto al chiodo, sono rimasto al film di Bonnie Clay, che il giorno dopo andavamo dal Sarto per farci fare quel vestito con il rialzo sul collo, però credo che il cambio grosso nel vestire è stato negli anni 70, 65-70, perché era il periodo che il benessere cominciava ad arrivare. Ordinevamo le scarpe alla Zenith sul giornale, risparmio a non finire proprio. Ma furono gli anni in cui i figli cominciarono a vestire in maniera diversa dai loro genitori. Una volta un ragazzo a 14 anni andava a scuola vestito come il padre, con giacca, cravatta, con orrende camicette. Il vestito dei giovani cominciò a differenziare comunque. Poi la fase successiva sarebbe stata che i padri mettevano i vestiti dei figli, quindi vedere anziani con i jeans, anziani erano, dicevo allora, il quarantenne con i jeans, con un po' di pancia, con la maglietta, e sotto ci metteva le scarpe con i lacci, col calzino blu, era veramente l'abominio di quei tempi. Manca un po' di presenza femminile, 800 24 0024. Sarei contento di avere un punto di vista femminile sulla moda maschile, visto che oggi parliamo di moda maschile perché lo stand di Radio 24 è a Firenze, a Pitti Uomo, stanno seguendo questa manifestazione di moda maschile. Noi nella nostra maniera rileggiamo il costume italiano attraverso gli abomini della moda. Solo una battuta, Daniela Ranieri, dal punto di vista femminile, tu sei giovane quindi hai una memoria cronologica limitata, ma tieni d'occhio l'evoluzione del vestirsi degli uomini? Gli uomini sono quello che si vestono anche. Ma non lo so, guarda, mi è venuto in mente che anche rispetto, se vogliamo fare uno studio paradigmatico, se prendi Bianca, che è dell'84, no? E poi prendi il Caimano, no? Allora c'era Nanni Moretti che si vestiva con quelle giacche color pastello, c'era lui che insegnava matematica alla Marilyn Monroe, c'era questo revival degli anni 60, molto bello, elegante, lui è affascinato dalle scarpe di Laura Morante perché sono sobrie e non sono appunto scalcagnate. Poi prendi il Caimano, no? Tu, avendo letto il mio libro, certo, sai che... È la mia Bibbia sul mio comodino, non passa sera che non ne legga un passaggio e ne rimanga ispirato tutta la notte. Bene. Sai, io ho sviluppato un'ossessione per Silvio Orlando, no? Allora, Silvio Orlando non è solo una persona, è come i registi ricchi, non me ne vogliano, insomma, non è un'offesa, vedono una persona normale. Silvio Orlando, che io ho avuto modo di incontrare a Roma, perché incontri chiunque a Roma se vuoi, si veste esattamente come i personaggi di Silvio Orlando. Allora, c'è una scena emblematica, allegorica nel Caimano, il cui lui a un certo punto è al bar, ovviamente, dell'auditorium e vede Margherita Bui, la moglie, che sta flirtando con un altro. Loro si stanno separando. La prima cosa che fa, che pensa di fare, è tornare a casa, aprire un cassetto ed estrarne un maglione di cashmere color cenere. Orribile, sì, mi ricordo. Orribile, che è il regalo di lei a un Natale, a un compleanno, e lo fa a pezzi, furiosamente. Quindi gli sceneggiatori, che poi sono... lo stesso Nanni Moretti, Francesco Piccolo e, se non sbaglio, Federica Pontremoli, hanno pensato che il cashmere fosse metonimia o metonimia sì, dell'amore coniugale. Quindi lì Nanni Moretti, che partiva da quelle giacche meravigliose con Gino pensava Paoli, che le mogli appassionate il momento dell'acne regalassero maglioni cashmere. Di cashmere. Capito? Andandola a comprare più, magari... Che costa 79,99 euro da Zara. Melog. La realtà condivisa. Hai 40 anni, anzi, ne hai quasi 50, ma preferisci dire che sei un quarantenne. Nello spogliatoio del calcetto, con i tuoi amici di sempre, parlate con entusiasmo del concerto dei Police, dei Micronauti, della roba pazza che strimpallazza, del Commodore 64, di Pac-Man, di Alberto Camerini, della New Wave italiana, dell'Enduro, dei Paninari, delle cabine con i gettoni telefonici, dei Dr. Martens a 8 buchi, della comodità delle Timberland, della fidanzatina con il Moncler, delle toppe di Naio Leari, di New Gold Dream, che secondo te ancora oggi rimane il miglior disco dei Simple Minds. Questo brano è tratto dal libro Masotti Germano, un libro sugli anni 80, New Gold Dream, altre storie degli anni 80, che uscirà a luglio per le edizioni Pendragon, di cui abbiamo avuto già succose anticipazioni. Parliamo della moda intesa nel senso più basso in cui possa essere intesa, vestirsi come si pensa che sia figo vestirsi, perché ci si vestono tutti, ispirandosi alla televisione, al cinema, a quello che gira intorno, senza una profonda, radicale cultura di cosa significhi essere vestiti secondo quello che è lo spirito del proprio tempo. Stiamo sentendo attraverso le voci degli ascoltatori, soprattutto le ascoltatrici, in questa mattina latitano naturalmente, perché si parla di moda maschile, come se loro non avessero il problema di vestire i loro uomini, di costringerli a cambiarsi il pantalone quando ormai è scalcagnato e liso nelle parti innominabili, non fossero loro a comprare calzini nuovi quando sono sfondati, non fossero loro a dire dai comprati qualcosa che fai schifo, come mamme, come eterne tutrici del decoro del proprio uomo. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. In quella descrizione degli anni 80 manca Tini Canzino. Ah, Tini Canzino. Sì, Tini Canzino era rappresentativa comunque di quegli anni. Spalle larghissime, gonna filopelo, gambe sempre iper acchittate, lucide, sì, i capelli che erano diciamo una massa fulva di gonfiaggio, quello era più o meno. Sì, allora io invece intervenivo per un discorso, io faccio il rappresentante, devo specificare in che cosa. Sì, in cosa? Diciamo in prodotto per fecondare le vacche, quindi sono un agronomo essenzialmente, semi di doro. Per uno speculum oppure cosa è? Sperma di toro per fecondare. Ah, lei va in giro con le sue fiale di sperma di toro? Sì, in azoto liquido. Quindi, quindi è surgelate dentro, ha una valigetta sotto azoto liquido? No, c'è un termos sotto azoto liquido. Ma sopra c'è anche la foto del donatore oppure come? Sì, sì, c'è un catalogo su cui si sceglie il toro. Con delle... Uno sceglie il toro e lei dà la fiala? Sì, si vendono a 10 e 10 in genere. Ma poi l'apposito applicatore, diciamo, uno deve avercelo, lo fornisce anche lei? No, diciamo che l'allevatore fa un corso di specializzazione per il fecondatore laico, che viene fatto in genere dalle APA provinciali. Fecondatore laico, perché c'è anche quello religioso? No, perché c'è il veterinario in caso. Ah, veterinario. Laico vuol dire, cioè un... Che non è laureato. Cioè un qualsiasi civile. Villano, un contadino prende il fialone e lo spara dentro. Qua c'è una pistola, come si spara? No, scusi che... con una pistoletta in acciaio. Ah, una pistoletta. Una pistola che sarebbe una cannuccia tipo quelle che... Ma per l'occasione si stabilisce un piacevole gioco, una gara di tiro al bersaglio oppure... No. Guardi, è una cosa abbastanza brutta da spiegare in radio. No, lasciamo perdere, torniamo alla moda. Cioè, ma faremo un'altra trasmissione, perché è interessante il pistolet, come funziona. Come si vuole. Pistolet, no, il discorso è questo, io frequento quindi stalle, essenzialmente non mi sono mai preoccupato del look in maniera particolare o della moda in maniera particolare, perché io quando è inverno mi copro, quando è estate vado in pantaloncini essenzialmente. Oggi pantaloni corti. Sì, pantaloncini abbastanza decenti, nel senso in bermuda e sandali. E con una cartucciera dove mette tutte le fiale? Le fiale sono sì, diciamo, vengono prese con una pinzetta, quindi perché sono, si scottano. Ho sempre avuto grossi problemi con i capoarea, perché loro sono vestiti come dei becchini essenzialmente, sempre molto legati a quello che un cliente secondo loro si deve aspettare. Cioè cravatta con nodo molto ampio? Sì, con la camicia strettamente bianca. Pantaloni strettissimi in fondo con scarpe gialle? Sì, un becchino, essenzialmente. Cioè un cassamortaro. Invece pensi, vendono la vita loro. E quindi io ho sempre avuto questo problema grosso con i... con quelli che pensano di doverti insegnare come si vende, quando io sono 20 anni e fosse loro. quindi essenzialmente c'è questa diatriba tra chi certo lavora... È un po' ridicolo andare a vedere nella stalla, entrare uno tutto vestito elegante con l'abito nero, la camicia bianca, a pestare lo strame, perché quello c'è nella stalla, paglia e strame, e con la valigetta dei suppostoni di sperma di toro, è in effetti un po' ridicolo. Alessandra. Sì, ciao, finalmente. Buongiorno a tutti. Mm. Alessandra. Sì, sì, pronto. Sto ascoltando la sua pregnante testimonianza. Ho spento la radio perché intanto sono uscita. Niente, questa cosa della moda anni 80 mi stuzzica tantissimo, perché io negli anni 80 mi sono divertita da pazzi. Ogni settimana noi adolescenti di allora si andava in Piazzola. La Piazzola è il più grande mercato bolognese che c'è, al venerdì e al sabato, dove si trovavano queste orribili, ma allora per noi meravigliose, camicie da pirata. Più rouge avevano, più belle erano. Per noi erano come dei tesori, praticamente. Dei ma tesori da dove venivano? La provenienza di quale era? Ah, non si sa. So che erano sporche, erano una roba. Mia madre, prima di farmele indossare, me le faceva lavare col Napisan, se allora già usavano, non lo so. Erano queste maglie da pirati che noi indossavamo su questi jeansacci e cinturoni alti che ci rendevano veramente, non so, ridicole, una cosa... Beh, esaltava la figura femminile, erate strette in vita. Sì, no, poi anche scollate per chi poteva permettercelo, per questi lacci, vedo non vedo, la rouge così. E sotto ballonzolavano i vostri... Ah, ballonzolava chi poteva far ballonzolare, chi non ballonzolava faceva l'effetto pirata e basta. No, ma quello che più mi fa specie è che io li ho conservati tutti questi tesori. E cosa ne fa adesso? Li rimiro e penso agli anni 80 quando ero giovane, e le mie figlie che sono adolescenti adesso dicono: mamma, ma tu andavi in giro così? Sì. Oh, ma sai che a noi invece servono per le feste di carnevale? Fantastico, sembrano le camicie di Johnny Depp, e questo ti fa pensare, e diventi più indulgente con loro quando vanno in giro vestite da schifo, sempre nella decenza. E beh, oggi non è che vestano da schifo le ragazze, ma insomma tutti, cioè veramente, almeno la camicia da pirata hanno l'obbligo delle scarpe da zoccola, questo sì, ma per il resto mi sembra che più o meno. Daniela Ranieri, trovi che oggi le donne vestono da schifo? Non particolarmente. Poi è a posteriori che si giudica quello che è lo spirito dell'abito di un decennio. Oggi è impalpabile. C'è stato dopo quell'ubriacatura degli anni Ottanta, con questi Versace attillatissimi, no? Da premio Capri, no? C'è stato a un certo punto una specie di reazione. Se tu pensi a Alexander McQueen, che era un genio nel suo ambiente, che dagli anni, insomma, dal 99 in poi ha cominciato a prelevare dal codice del sadomaso, cioè dell'eccesso, e a importare dentro l'alta moda tutti quegli stilemi, appunto, che appartenevano al parafernalia del sadomaso, e li ha resi popolari, perché c'è stato un inseguimento poi del popolare rispetto a questo. Oggi vedi ai supermercati le signore col sandaletto borchiatissimo, ipericavigliato, con tacchi da stiletto, e non si rendono conto che era accessorio da porno shop 10 anni fa. Ed è per questo oggi ci vanno al battesimo dei figli. Esattamente, ed è per questo che l'Aristodem ha dovuto reagire a questo, certo, con una scelta di sobrietà. Ivo Germano, torniamo a Ivo Germano un attimo, perché è stato toccato, lambito e va approfondito il tema anni 80. Mi sembra che però sia lo snodo fondamentale dal dopoguerra a oggi. Se non ci fossero stati gli anni 80 non avremmo nulla da raccontare. Infatti, sono tutti epigoni. Comunque gli anni 80 poi già durano 5 anni, erano già vecchi a metà degli anni 80, e tutti il resto sono, come dire, improbabili reazioni a quello che si è già stato. Cioè Steve Strange, Vivien Westwood, i Police, i Visage, cioè hanno fatto e disfatto, e il resto sono, diciamo così, sì, beh, adesso troverai le signore bene con Sandro Borchiate eccetera, ma sono tutti epifenomeni. Gli anni 80 sono veramente fenomenologici, non sì, diciamo che lo stile zoccola, che oggi va moltissimo, in realtà è la coda lunga delle signore delle soap degli anni 80. Cioè, quelle dei Siranda de Pedra. Dei Siranda de Pedra, sì, infatti. Però, anche i ricchi piangono. Se c'è una cosa di cui veramente una piccola avvertenza al nostro libro che uscirà, è che non c'è nostalgia, non va letto con nostalgia, perché la nostalgia è una gabbia che spinge ai paradigmi. Invece questa è fenomenologia. Quello non a caso in quegli anni si diceva nostalgia canaglia. Melog. La realtà condivisa. Una festa dell'eleganza a Viareggio. auspice l'ente nazionale della moda e realizzatrice l'azienda autonoma della Versiglia, indossatrici di 12 case di Roma, Milano e Torino, hanno presentato ad un eletto pubblico cosmopolita ultimissime creazioni d'alta moda, estese a tutti i rami dell'abbigliamento femminile, confezionate con stoffe, originalità e gusto autenticamente nazionali. .00240024, vedo che rievocare i capini della moda passata significa riallacciare ad oggetti, oggetti che poi hanno con noi un'intimità costante, quotidiana, abbiamo messi addosso, li abbiamo pensati, immaginati, li abbiamo applicati e adattati e abbinati a occasioni particolari o a non occasioni o al tran tran quotidiano. Pezzi di noi sono rimasti nei ricordi dei nostri guardaroba degli anni passati, che però perlomeno erano significativi del senso di un'epoca, dello spirito di un decennio. Noi abbiamo vissuto decenni fantasticamente ricordati, ma molte volte sono dei particolari che sfuggono alle esegesi più attente. Giulio, buongiorno. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Ma sto ascoltando. Volevo dire che la vituperata giacca a un bottone era nata da Armani principalmente. Ma infatti faccia schifo, mica detto che è una cosa fatta da Armani. Santoro ha vestito Armani per anni quando faceva Samarcanda, era inguardabile. Alcune cose tornano ancora ora, perché tipo i pantaloni con le penne stanno ritornando, le camicie col collo piccolo, tipo io ho ritrovato la camicia del mio matrimonio, naturalmente con le penne dietro, quindi piuttosto larga, però col collo piccolo, tra un po' ritorneranno i pantaloni con tante pence stretti in basso, probabilmente. Lei dice? Ma sì, secondo me sì. E la camicia coreana tornerà, no? Spero. Secondo me anche quella, anche ce ne sono già un po' in giro. Camicie coreane? Il gurismo, sì. No? Sì, il gurismo? Sì. In che senso? Nel senso che... Scusa un attimo. Che è vero che insomma, ne parlavamo ieri con un grande filosofo della contemporaneità che si chiama Amleto De Silva, no? Cioè, è vero che Cavalli fa schifo, no? Però non ti devi per questo vestire come un gesuita, anche perché Battiato l'ha già fatto nel 78, insomma. Però sta ritornando. Sta tornando il gurismo. Sì, questa spiritualità un po' biologica, no? Sentiamo la 6. Giovanni. Sì, buongiorno. Eccomi. Ma io degli anni Ottanta non ricordo questi termini. Io lavoravo come grafico anche per ditte, vestiture moda, quindi l'abbigliamento. E quindi frequentavo sia Pitt a Firenze o Sem a Parigi, che erano un po' le fiere di settore di riferimento. Mi ricordo alla metà degli anni Ottanta, quando ci fu l'affermazione di questa moda dark, praticamente si affermò questo total look nero. L'armadio di casa mia era monocromo, c'erano soltanto capi di abbigliamento di colore nero che ci si infilava praticamente a caso, scegliendoli così nel mucchio e non si sbagliava ma mai. Ma si usava dire un come sei dark, perché non si vestiva di nero, vero? Sì. Oggi non direbbe più nessuno, sembra un beccamorto. Questo total look nero, ed era molto funzionale, perché effettivamente non c'era il problema cosa abbino con cosa, bastava infilarsi. Poi tiene bene lo sporco il nero, quindi funziona. E poi teneva anche molto bene lo sporco, anche questo non è un elemento diciamo da sottovalutare. Sentiamo Luciano. Luciano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ma la riflessione che facevo era che comunque anche nella moda il tempo è molto galantuomo, nel senso che è vero, circoliamo questi estremismi che adesso sono ridicoli, ma la sartorialità ha mantenuto più equilibrio e mi sembra manteneva molto equilibrio in quegli anni là, e oggi mi sembra che lo stile, se vogliamo dire, napoletano, ovvero insomma rapido, l'abbigliamento tutto sommato elegante e ricercato. Ma lei di quelli che comprano un vestito ai grandi magazzini c'è scritto sartoriale semplicemente perché ha i bottoni della giacca sbottonabili, solo per quello, e c'è ancora le tasche impunturate con il filo da imbastire che uno deve tagliarlo con le forbici. A parte che li vendo, li vendo, ma quelli dai, li fanno in serie come gli altri. Sartoriale è una buffonata, sono fatti in confezione. Sì, però ci mettono linea, un po' di filo buttato lì, ma è tutto così. Seriamente, però la linea sartoriale, ovvero una asciuttezza di linea, evitare gli estremismi, il sarto napoletano, ma anche Biella, ha sempre fatto un capo più sobrio, più misurato, e oggi questa cosa mi sembra che gli venga riconosciuta. Sì, ma chi se ne mette? Non è che si vede in giro gente con la giacca napoletana? No, non intendo da quello. Agli aperitivi nelle terrazze romane, i parvenu, quelli che fanno i PR, perché... No, mica tanto. Oggi anche i ragazzini vogliono la giacca bella sancrata, la vogliono corta, la vogliono la manica asciutta e il pantalone bello asciutto. Questa cosa è... Sì, devo dire, guardi, se devo dire la differenza negli ultimi 3-4 anni è che le giacche di 4 anni fa non si possono più mettere, sono troppo lunghe. Sono bellissime fino all'ombelico, poi dopo ci sono 4 dita di giacca in più e questo è il vero problema. Più evidente, ma poi c'è la spalla che è comunque più larga, la tromba manica che è più larga, ovvero sono tanti piccoli dettagli, però però tornando all'inizio del mio intervento, io dico che sono un riconoscimento al valore della sartorialità. Vabbè, lei le vende, grazie, lo dice Luciano, è il suo mestiere. Amedeo. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì. Negli anni 80 sono stato consulente di organizzazione per alcune delle più grandi firme della moda e dell'alta moda italiana, a cominciare, posso fare dei nomi? Vabbè, faccia quel che vuole. Anche perché non è... sono stato consulente del gruppo Valentino. Bravo. Nel senso che ho riorganizzato tutto la Pret-à-Porter. E quindi ho seguito il campo della moda, delle grandi firme, del Pret-à-Porter, e rispetto ad oggi c'è una tendenza ad abbandonare completamente l'aspetto formale rispetto alla sartoria napoletana, che è molto formale. Vabbè, sì. E che oggi, quello che diceva lei, è decisamente... Io oggi sono vestito con un paio di jeans e con una camicia alla coreana, molto comoda. Sì, come poteva essere vestito però 50 anni fa, non è che è cambiato molto. Vabbè, abbiamo dato soltanto una velocissima passata, quella che era la moda maschile. Ci ritorneremo, a presto.